giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Politica, ultime ore per decidere le liste, la Lega completa le candidature, attesa per Forza Italia. Vendemmia, cambio di programma sul Colio, la pioggia di questi giorni potrebbe migliorare le produzioni. Le misure del governo mitigano l'inflazione, ma dalla CGA di Mestre il timore per l'autunno e per gli effetti della recessione tedesca. Calcio Udinese, un punto in classifica per i bianconeri dal pareggio senza reti al Friuli contro la Salernitana. Europei di nuoto, caos 25 km, gara annullata a causa del mare, il codroipese Furlan era terzo. 8:30 di domenica 21 agosto, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è poco nuvoloso sulla regione. Alle 6 c'erano 21 gradi e mezzo a Trieste, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Udine 19 gradi, a Gorizia 18, a Pordenone 17,5. A Tolmezzo 17 gradi, a Forni di Sopra 16, a Tarvisio, Sappada e sul Piancavallo 10 gradi. Sul Monte Zoncolan 15 gradi. Sul Lussari 10. Sulla costa Lignano 23 gradi e mezzo, a Grado 21 e mezzo, temperatura del mare 25 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi su tutta la regione: cielo in genere poco nuvoloso, sulla fascia orientale sarà probabile maggiore variabilità con bassa probabilità di qualche locale pioggia o rovescio, al pomeriggio 20 a regime di brezza. Per domani su tutta la regione cielo in genere variabile, su Alpi e Prealpi e Giulie sarà probabile maggiore nuvolosità con la possibilità di qualche debole pioggia sul Tarvisiano. Sulla costa soffierà Borino al mattino, specie a Trieste, in giornata 20 a regime di brezza. Apriamo con la politica, sono ancora ore di consultazione nel centrodestra. Forza Italia in attesa di indicazioni da Berlusconi e dal coordinatore nazionale Tajani. Certi nomi nel maggioritario, nel collegio unico per il Senato correrà Luca Ciriani, attuale capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama. La Lega nei collegi uninominali della Camera schiera Massimiliano Panizzutta, Trieste Gorizia e la sottosegretaria Vania Gava a Pordenone. A Udine nella Bassa Friulana correrà invece il meloniano Walter Rizzetto. Gava è schierata anche capolista nella circoscrizione alla Camera, dietro di lei l'assessore alle infrastrutture Gianfranco Pizzimenti. Capolista al Senato l'europarlamentare Marco Dreosto, segretario regionale del Carroccio. Il Pittoni, presidente della Commissione Cultura del Senato nel governo giallo-verde, fa sapere che non si candiderà e guarda a possibili incarichi di governo. Accordo più semplice da trovare per noi moderati, la lista che raggruppa i quattro partiti più piccoli, quelli che fanno riferimento a Lupi, Brugnaro, Toti e UDC. In caso di superamento della soglia del 3% a livello nazionale, i due capolista nel proporzionale sono Giulia Manzana alla Camera ed Enzo Bortolotti al Senato. Per il terzo polo centrista in Friuli Venezia Giulia, i due nomi che contano sono quelli del renziano Ettore Rosato, vicepresidente alla Camera, nelle liste del proporzionale per Montecitorio. A seconda della sua performance, combinata con quella dell'altro collegio in cui corre in Campania, avrà o meno chance anche Isabella De Monte, calendiana ex europarlamentare del PD, seconda nella lista. Già chiusa da alcuni giorni la partita per il PD con Serracchiani e Roiz, capolista per Camera e Senato, e le candidature di Favret, Conti e Celotti nei tre collegi della Camera. Al Senato per la coalizione di centro-sinistra correrà Furio Onsel, nella stessa coalizione la lista di Sinistra Italiana Europa Verde ha già ufficializzato i ruoli di capolista per Pellegrino e Cimolino. L'ufficio elettorale allestito presso la Corte di Appello del Tribunale di Trieste rimarrà aperto per la presentazione delle liste per l'intera giornata di oggi e di domani. Passiamo all'economia. Contro l'inflazione, salita dell'8% in un anno, le famiglie e le imprese del Friuli Venezia Giulia hanno ottenuto 1,5 miliardi di euro dal governo. Il dato arriva dallo studio della CGA di Mestre, l'Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese. Tra le misure introdotte, il taglio alle bollette di luce e gas, i crediti d'imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti o il bonus da 200 euro. Nella prima parte di quest'anno il turismo ha retto bene, il settore delle costruzioni ha continuato a investire, le esportazioni sono andate bene, un risultato economico positivo che pochi avevano previsto. ma l'orizzonte non è dei più sereni. Sull'autunno incombe la paura che possano salire ancora le spese e si temono conseguenze dalla recessione economica in cui sta scivolando la Germania. Le piogge dei giorni scorsi, sebbene siano state piuttosto moderate, hanno comunque portato ad un cambio di programma nelle vendemmie che in alcune zone produttive stavano per partire. Vediamo come si sta evolvendo la situazione sul Collio Goriziano. Cassette pronte ma ancora ferme, il Collio sembra il paese incantato delle fiabe e l'incantesimo che ha cristallizzato tutto e ovviamente la pioggia spasmodicamente attesa. La maggior parte dei terreni è ancora umida e nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche ulteriore moderato acquazzone. Quindi stop ai vendemmiatori che erano già pronti a partire, è il momento dell'attesa, dare tempo alle piante di attingere e di portare linfa ai grappoli. Il direttore della cantina produttori Cormons, Alessandro Dalzovo. La pioggia oltretutto si è verificata durante la notte ed è scesa in modo molto lento e il terreno è stato favorito l'assorbimento da parte dell'apparato radicale delle piante. I dati dei primi campionamenti che abbiamo effettuato sulle uve dei nostri soci, che ricoprono tutta la provincia di Gorizia, hanno dato valori normali, gradazioni zuccherine nella media basse, con acidità ancora molto alte. Di conseguenza la pianta ha bisogno di acqua, ha bisogno di riequilibrarsi e soprattutto sostanze minerali che poi facciano maturare definitivamente l'acino. Adesso, aprendo un acino, il vinacciolo all'interno è ancora molto verde. Dobbiamo aspettare che lignifichi, quindi che maturi e che assuma la colorazione marrone. Questo è il segnale di maturazione e dà il via alla vendemmia. E lo stress idrico accentua anche la competizione tra le DOC, avvantaggiando la pianura rispetto alla collina, il presidente della cantina produttori Cormons, Filippo Bregant. La fortuna del Collio è di avere una grande varietà sia di terreni che di esposizioni che di altitudini, per cui quando i vigneti più alti soffrono, i vigneti di media collina e di fondovalle invece danno produzioni qualitativamente superiori alla media. La frequenza di queste annate siccitose ci impone di portare l'irrigazione ormai a tutte le zone del Collio, in particolare a quelle più elevate. Irrigazione a goccia con dei dosaggi minimi che però sono estremamente necessari in annate così difficili. Capriva del Friuli, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli aggiornamenti sulla pandemia in regione: ieri sono stati 766 nuovi casi di contagio da coronavirus emersi da poco meno di 4.600 tra tamponi molecolari e test rapidi. L'incidenza settimanale su 100.000 abitanti è salita a 381. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, che ieri erano 5, sceso di altre 10 unità il numero dei pazienti positivi ricoverati in altri reparti, che ieri erano 190. Sono stati 6 decessi, di cui 4 a Udine, 1 a Trieste e 1 a Pordenone. Ed è prevista per lunedì 5 settembre la riattivazione dei 22 posti letto di RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale del distretto di Tolmezzo. Lo ha reso noto ieri il vice governatore con delega alla salute Riccardi. L'azienda sanitaria Friuli Centrale gestirà le attività cliniche, assistenziali e riabilitative. L'azienda per i servizi alla persona Luigi Scrosoppi garantirà i locali e i servizi di albergaggio e ristorazione. La cultura è partito ieri sabato da Muggia all'Alpe Adria Puppet Festival, rassegna di teatro di figura organizzata dal CTA di Gorizia, in programma in 5 diverse location fino al 4 settembre. Una sessantina di eventi per tutte le età, senza confini, nel segno della inclusività. È l'Alpe Adria Puppet Festival, uno degli appuntamenti transfrontalieri di teatro di figura più longevi, con spettacoli provenienti da tutta Europa. Una rassegna per far conoscere il teatro di figura oltre alla concezione classica del teatro di burattini e marionette. Fino al 4 settembre questa 31esima edizione del Puppet Festival si svilupperà in 5 location con una novità. Il direttore artistico Roberto Piaggio. Inauguriamo il festival a Muggia ed è una new entry che si aggiunge agli altri centri che già ospitano da anni il festival, vale a dire Grado, Aquileia, Gorizia e Nova Gorizia. Punti di forza di questa edizione proprio quegli spettacoli che indicano le nuove tendenze del teatro di figura europeo. Un'altra novità è quella di scene aperte. noi quest'anno siamo riusciti a mettere in rete tre festival, proprio a Gorizia e a Nova Gorizia. Abbiamo riunito le forze con il festival Gotropolis, che è al primo anno e che si svolge a Nova Gorizia, e Invisible City. Gli spettacoli vengono ospitati dovunque e questa è una caratteristica proprio del festival e del teatro di figura. Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora lo sport, il calcio, l'Udinese contro la Salernitana non riesce ad andare oltre ad un pareggio senza reti nella prima partita in casa del campionato. Un punto, il primo in campionato per Udinese Salernitana, arriva dopo un rigore, prima assegnato ai friulani per fallo di mano di Brone, poi cancellato da Aureliano dopo la revisione al VAR. La Salernitana gioca meglio in avvio, trovando Silvestri a fermare le conclusioni di Bonazzoli e di Fazio. L'Udinese diventa pericolosa dopo la mezz'ora con Deulofeu, che si vede fermare il suo destro da Sepe, portiere della Salernitana, e poi dal palo dopo un grave errore difensivo della squadra di Nicola. L'equilibrio numerico tra i giocatori in campo si spezza nel recupero del primo tempo con l'espulsione di Perez per il fallo su Mazzocchi giudicato da rosso diretto dall'arbitro. Troppa severità per Sottil, che nella ripresa passa a 4 in difesa, inserendo Lovric a centrocampo al posto di Makengo, ammonito. Nicola invece si affida al nuovo arrivo, il senegalese Dia, ma le conclusioni più pericolose arrivano da lontano, da Candreva e da Bonazzoli di testa con Silvestri che non si fa mai superare. Sentiamo il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil. Forse non abbiamo iniziato benissimo, forse un po' contratti, però poi nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni e abbiamo messo lì la Salernitana e potevamo andare avanti meritatamente. Poi è chiaro che è arrivata l'espulsione, direi abbastanza discutibile, e poi è chiaro che siamo stati bravi, ordinati a interpretare il secondo tempo senza rischiare niente. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora calcio, il Pordenone ha sconfitto in amichevole il Giorgione a Castelfranco Veneto per 5-1 e la Triestina prosegue nel suo ritiro romano. Oggi alle 17.30 gli Alabardati giocheranno contro i pari categoria della Viterbese e mercoledì contro il Latina. Agli europei di nuoto di Roma ieri pomeriggio l'annullamento della 25 km a causa delle condizioni del mare. Nella gara maschile al momento dello stop, seguito poi dal tardivo e contestato annullamento della gara, erano in testa tre italiani: Mario Sanzullo, Dario Verani e il codroipese Matteo Furlan. Nono il triestino Andrea Barnaba nei tuffi dalle grandi altezze dai 27 metri, bronzo vinto dall'azzurro Alessandro De Rose. Passiamo al basket. Consolidarsi e salvarsi nel primo campionato di A2 nella storia per una squadra di basket di Cividale. Così Massimo Fontanini, direttore tecnico della Gesteco, ha voluto presentare ai tifosi la nuova compagine. Tra gli ultimi arrivi, in particolare l'ala statunitense Dalton Pepper e da Bergamo, Giacomo Dell'Agnello, figlio d'arte. Adrian Chiera, riconfermato nel ruolo di capitano, sarà il collante della formazione di coach Pillastrini tra i nuovi innesti e i giocatori rimasti. In questa stagione per la Gesteco anche il confronto con Old Wild West Udine in un derby tutto friulano. Lunedì in avvio gli allenamenti, la prima uscita ufficiale è in programma a Lignano a inizio settembre al Memorial Bortoluzzi, ma sentiamo Fontanini. È una squadra atipica, senza grossi punti di riferimento, soprattutto sotto canestro. Poi è chiaro che sul reparto esterni ci sono le garanzie che si chiamano Rota, Cassese, Capitan Chiera, poi è stato inserito Dalton Pepper per dare quel quid in più, lui che è un giocatore americano che coach Pilla pensa possa essere l'aggiunta perfetta all'interno del suo sistema, poi senza dimenticare Miani e Battistini sotto canestro faranno la parte del leone. Cividale, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. È il giorno della storica staffetta tra i rifugi organizzata dall'Unione Sportiva Collina di Forni a Voltri, 59esima edizione, tra le squadre in gara Gemon Atletica, l'Atletica Dolce Nord-Est, poi gli sloveni, un terzetto di nazionali britannici oltre Aldo Moro Paluzza e Polisportiva Timau Cleulis. La gara si snoda nella sua formula classica su tre frazioni, salita, traversata e discesa. Dalla partenza da Collina si arriva al rifugio Lambertenghi superando in 4 km e mezzo mezzo, un dislivello positivo di 739 metri. Da lì per i secondi frazionisti, il sentiero attrezzato Spinotti, tecnica attraversata in quota nel massiccio del Coglianse, infine la discesa che conduce di nuovo al traguardo di collina in poco meno di 5 chilometri. Il secondo concerto della 32esima edizione delle serate musicali a Villa Codelli, che ha come direttore artistico il maestro Romolo Gessi, avrà protagonista il pianista praghese Ondřej Zavadil, di cui state ascoltando in sottofondo un'esibizione dello scorso febbraio. In programma musiche di Leos Janáček, Ludwig van Beethoven e Robert Schumann. Numerosi premi vinti dal giovane artista in tutta Europa, così come le masterclass a cui ha partecipato, impartite da grandi pianisti contemporanei. Appuntamento a Mossa, Villa Codelli, alle 21. Ancora musica, il giovane duo cameristico composto dalla violinista Laura Calligaris e dal pianista Andrei Lienko eseguiranno musiche di Beethoven, Grieg e Schumann a Malborghetto Valbruna, Palazzo Veneziano alle 20:30 nel Festival della Montagna Friulana Carni Armonie. Il trio di Genova, ensemble composto da Vittorio Costa Balossi al pianoforte, Veronica Nosei al clarinetto e Andrea Bellettini al violoncello, eseguirà un repertorio di musiche comprese dal Settecento alle composizioni contemporanee. Bottenico di Moimacco a Villa dei Claricini Dornpacher alle 19:30. Il gruppo degli Antinomia con il nuovo progetto audiovisivo Zero a Chiusaforte alle 17 nella stazione. Durante l'evento sarà possibile donare per una raccolta fondi per sostenere i progetti della cooperativa Sudin Onlus in Sud Sudan. Omaggio ai Beatles è l'evento musicale della band Help, che proporrà con le più belle ed indimenticabili canzoni del famoso gruppo di Liverpool. Appuntamento a Grado alla Diga Nazario Sauro alle 21. 8:47, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani. Oggi in edicola l'apertura del Piccolo di Trieste con il titolo capocronaca sul pienone di alberghi e ristoranti in città, con cifre ritornate a livelli pre-pandemia. Fotonotizia per la perizia del medico legale sul decesso di Liliana Resinovic, ritrovata lo scorso gennaio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, che attesta la morte per asfissia. Nel servizio interno si leggono molti dettagli, come la completa depilazione in cui è stato trovato il corpo. Per la politica, le candidature della Lega alle elezioni, con Marco Dreosto, capolista al Senato, e Graziano Pizzimenti, numero 2 alla Camera. Spazio poi a un'analisi della situazione interna al PD, con le critiche al segretario regionale Cristiano Sciaurli. Ancora in tema politica, il calendario delle prossime sedute del Consiglio Comunale, che ricomincerà a riunirsi dal 7 settembre, con temi come la crisi Varzila e la carenza di conducenti nel trasporto pubblico locale. Energia e materie prime, fare la spesa costa di più. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine, che in fotonotizia è il calcio, il primo punto dell'Udinese in 10 al Friuli contro la Salernitana, e accanto la beffa per Forlan agli europei di nuoto. Di spalla uccide una donna, poi Valegnano arrestato in Lombardia. Un uomo di Varese, dopo l'omicidio di cui è accusato, era venuto in vacanza nella località balneare friulana e se n'era andato senza saldare il conto dell'albergo. La scorsa notte poi un raid di ladri nei locali pubblici di Udine, magro però il bottino. Ad aprire la cronaca cittadina, l'avanzamento dei lavori al Palamostre di Udine, che sarà cittadella della cultura con sala espositiva. Un altro titolo in prima: allontanato per 3 anni da Lignano, il turista veneto che aveva rivolto insulti razzisti ad un medico del punto di primo intervento. A Pasian di Prato bagnano i giardini nonostante le limitazioni per siccità e arrivano le multe. In taglio basso le vacanze del re del Belgio a Villa Deciani di Montegnacco. Sul Gazzettino: corsa nelle foreste a caccia di legna, finita in tutte le rivendite per un bancale, bisogna aspettare 8. Udinese, un punto e qualche rischio nella fotonotizia, poi l'incidente in montagna dell'altro ieri in Val Degano, la politica e la riapertura dei posti RSA Tolmezzo. In basso, la fiera di Pordenone mangia Udine e comanda. Il Piccolo di Gorizia apre con il capo cronaca, che è un reportage sulla situazione dell'ex ospedale civile colpito da incendi, vandalismi, irruzioni e degrado. C'è poi un approfondimento sugli empori della solidarietà che lo scorso anno hanno supportato quasi 2.000 persone. Capocronaca di Monfalcone, le polemiche in consiglio comunale sulla gestione dell'animazione musicale dell'area verde, stretta tra la necessità di attrazione e quella della tranquillità del vicinato. Da Capriva del Friuli, la vicenda della palestra comunale chiusa da tempo per la non conformità alle norme di serramenti e vetri. Da Grado, i 69.000 euro di contributi comunali per le attività culturali. La fetta più sostanziosa, di 30.000 euro, è destinata alla realizzazione della 39esima edizione della rassegna Musica 4 Stelle. Sul Gazzettino di Pordenone, nella fotonotizia, c'è il boom della fiera. Pordenone, anche qui, batte Udine. Poi un titolo per la cronaca: il ladro in camera sveglia la famiglia di Sacile in vacanza a Siena. Di spalla, i cittadini di Pordenone promossi sulla raccolta differenziata in taglio basso, calcio, nero-verdi. C'è anche Dubi nel super attacco. Si tratta del lituano Dubičkas. Accanto il precampionato della Tinet Prata nel volley di A2. Sul Messaggero Veneto di Pordenone, di spalla in città sempre più single, superata quota 10.000. Sotto in 2.000 alla veglia per l'ultimo saluto ai ragazzi morti in auto a Cordignano. Nell'incidente ha perso la vita, ricordiamo, anche Marco Darè di Caneva. Sotto Aviano vuole lumi sull'ipotesi termovalorizzatore. Ancora l'ampliamento Cronospan, il comune, come aveva annunciato, fa ricorso al TAR contro la regione. I programmi della sede RAI del Friuli Venezia Giulia alle 9.15, l'ottava puntata di Quel sogno di un valzer, operetta in 13 ritratti, l'episodio di oggi dedicato ad Oscar Strauss. La programmazione televisiva regionale alle 9.15 su Rai 3 propone Magazzino 26 sul mondo dei big data e il documentario Enron Sadira, protagoniste donne che hanno costruito successo e consenso partendo da una grande attenzione alla sostenibilità, alla natura, alla tradizione. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Paolo Cassano, in segreteria collaborato Cristina Polselli. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.